Sì, è una storia, una di quelle storie che ci piacerebbe non dover ascoltare, non dover raccontare. C'è stata l'ordinanza di reintegro di due lavoratori, giovanissimi migranti pakistani, uno di 26 anni, uno di 25 anni, uno delegato sindacale, l'altro attivista iscritto alla FIOM, che sono stati licenziati, e due giorni fa è uscita l'ordinanza che intima il reintegro di entrambi i lavoratori per palese antisindacalità, quindi per discriminazione sindacale dei due lavoratori, che sono stati sottoposti a uso discriminatorio della cassa integrazione, per cui emerge un comportamento diffuso in cui un capo reparto esplicitamente, ascoltando anche, si legge perché i testimoni hanno raccontato una vicenda pesante, capo reparto che chiedeva ai lavoratori iscritti alla CGIL, alla FIOM, di cancellarsi quale condizione per non andare in cassa integrazione. E addirittura un lavoratore che dice: sì, io mi sono cancellato, sono ritornato al lavoro, poi quando mi sono iscritto sono di nuovo stato sbattuto a casa in cassa integrazione. Azienda che ha provato a sostenere che i due lavoratori sono stati licenziati, non erano ricollocabili in altri reparti, e invece le testimonianze hanno stabilito che i due lavoratori erano assolutamente ricollocabili perché potevano essere impiegati anche in altri reparti dell'azienda, e addirittura per tre testimoni dell'azienda il giudice ha trasmesso alla Procura della Repubblica i fascicoli per verificare l'ipotesi di falsa testimonianza. Una storia quindi pazzesca, che è una vittoria dei lavoratori, una vittoria della FIOM, del sindacato, un miglior regalo prima delle feste per una classe operaia martoriata, queste periferie del mondo del lavoro che ci sono anche nel nostro settore, anche nel settore metalmeccanico, che ci raccontano però della dignità dei lavoratori e delle persone che non abbassano la testa. Una sentenza, un'ordinanza che come FIOM diciamo parla anche alla politica, perché questi due lavoratori sono stati reintegrati grazie all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e che quindi dimostra che diritto al reintegro sul posto di lavoro è prima di tutto un diritto per affermare la dignità delle persone che lavorano, di non essere sottoposti a comportamenti come quelli che abbiamo visto raccontare dai testimoni in tribunale, e che chiama in causa questa ordinanza anche il sistema di rappresentanza delle imprese, perché Bologna è sempre portata a esempio perché il nostro tratto caratteristico in questo territorio è anche la qualità avanzata delle relazioni industriali e sindacali, però queste aziende possono trovare, queste aziende che mettono in atto comportamenti di questo tipo e che vengono sanzionate, possono trovare cittadinanza, cioè essere parte del sistema di rappresentanza delle imprese. Bisogna un po' scegliere. Penso che questa sentenza sia un grande motivo di orgoglio, che testimonia l'esigenza di avere un sindacato determinato e coraggioso, di avere lavoratori che hanno deciso di non piegare la testa e di avere un orgoglio, cosa non scontata sempre di più, perché per un lavoratore che decide di non chinare la testa e di pretendere i propri diritti, magari continua a esserci l'onda lunga della crisi che diventa anche poi l'accettare, pur di rimanere a lavorare, qualunque condizione. E quindi penso che questa sentenza dia anche un motivo di coraggio in più per tutti i lavoratori che oggi sanno che ci sono le leggi, che ci sia un sindacato serio, coerente, determinato, e devono alzare la testa per non accettare le ingiustizie tutti i giorni sul luogo di lavoro. Ai tempi del Jobs Act, quindi, con l'articolo 18 cancellato, e abbiamo visto anche i dati, un boom di licenziamenti disciplinari, come se improvvisamente tutti i lavoratori avessero iniziato a ribellarsi alle aziende, con alcuni settori in cui vediamo essere messo sempre più in discussione anche il contratto nazionale, quanto è faticoso fare sindacalista? Sì, mi vengono in mente tre osservazioni a quello che tu dici. Prima cosa, questo ultimo passaggio, il ruolo del sindacato. Fino a qualche anno fa noi andavamo nelle aziende per chiedere di applicare le leggi, quindi le leggi sulla salute e la sicurezza, applicare il contratto nazionale, il diritto di assemblea. Oggi dobbiamo invece cercare di fare accordi per limitare i danni prodotti dai cambiamenti normativi intervenuti negli ultimi anni, cioè c'è stata una legislazione contro i diritti di chi lavora. Sicuramente questo produce una difficoltà per l'azione ordinaria del sindacato, che ci fa dire: dobbiamo sperimentare cose nuove, dobbiamo rafforzare un'idea di autonomia e indipendenza della nostra azione. Una seconda osservazione che mi viene in mente è il fatto che purtroppo ci sono i bassi fondi del mondo del lavoro, di cui ci parlava ieri al nostro direttivo Marta Fana, le periferie del mondo del lavoro che riguardano gli appalti, subappalti, ma anche peste del nostro settore, dove diventa faticoso anche solo far rispettare il contratto nazionale. Questi due lavoratori hanno incontrato e conosciuto il sindacato per ottenere il giusto riconoscimento di quanto gli era dovuto per il corretto inquadramento previsto dal contratto nazionale. Pensare che anche nel nostro territorio c'è la necessità di avere un sindacato che fa rispettare il contratto nazionale, penso che ci dica anche molto rispetto alla necessità che tutti dovremmo avere, lavoratori, sindacato, sistema delle imprese, perché non possiamo pensare che Bologna e l'Emilia Romagna competano sul costo del lavoro ma sulla qualità dei prodotti. E poi ci raccontavano, quando hanno attaccato il Job Act, che erano pronti, in realtà sembrava che ci fossero le flotte delle multinazionali pronte ai confini del paese per venire a investire, invece abbiamo visto che c'è un enorme problema di qualità dell'occupazione, di assenza di investimenti privati e pubblici e del dilagare di lavoro precario e povero, cioè il disagio lavorativo che oggi tocca 5 milioni di lavoratori tra tempi determinati che non riescono a tradursi in tempi indeterminati e part-time involontari. Come dire, c'è molto lavoro da fare, ma la sentenza e l'ordinanza del reintegro di questi due lavoratori dice che si può fare.